suono a record. Da dove vengo, da qui, MPOLI, provincia estrema, in mezzo alla Fipili, Empoli, Est, Fibiana, Montelupo. Dire che vengo dal ghetto è come dire che Brunetta è bello nudo. Qua vivo, mi muovo, mi riproduco, consapevole che la provincia è uno scudo. Se da una parte ti protegge dalla feccia di altro ambiente, contemporaneamente ti rinchiude lentamente. Qua la chiusura è fatta a corona, anfiteatro di colline dove ogni cosa è buona. Qua c'è buon vino, l'olio è divino, ti parlo della fine del Chianti fino a inizio del Montalbano, in mezzo realtà urbana dove c'è il benessere, mosaico con paesi e tradizioni che fanno da tessere, economia fertile, sembra il posto giusto dove crescere. Qui è tutta una routine, c'è contraddizione tra i miei vicoli, provo odio e amore standomene qui. In sto contesto Idi muove i suoi passi, valutando contrasti connessi alla propria prassi, cercando incastri, compone la sintassi, schiacciando sassi che non sono massi per distrarsi da ragazzi distesi sui divani, con le mani piene di nero charas manali, e nelle cuffie artisti pop nostrani ed internazionali che allietavano giornate altrimenti banali. Io sono cresciuto così, immerso in questo trip, se non ci credi chiedi pure agli amici. Qua non c'è da fare un cazzo se non abbellirci, andare in posti del cazzo, in posa poi mostrarsi. Qua la chiusura è totale, mentale, borghese, e sono i giovani che ne fanno le spese. Cioè nonostante orgoglioso di essere empolese, se offendi la mia zona puoi pagarne le spese. Qui è tutta una routine, c'è contraddizione tra i miei vicoli, provo odio e amore standomene qui. Ma se me ne vado torno ad Empoli, ed in questura mi conosco per nome e cognome, ed anche qui è facile perdere la ragione. Se abusi di una sostanza e diventi un coglione, lo psicodramma si moltiplica per tutte le persone, in quanto qui non esiste privacy. Te la scordi, se cadi ti sopporti postumi. Tutti devono parlare, dire, giudicare. Ecco lo scenario di un provinciale. Qui è tutta una routine, c'è contraddizione